Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Come promesso ieri parleremo anche della legge, o meglio che è passata ieri in Commissione Agricoltura alla Camera, mi riferisco al Made in Italy alimentare, qualche perplessità europea, anche perché la Commissione Europea ha 90 giorni di tempo per pronunciarsi sull'ammissibilità di questa legge, qualche perplessità poi l'affronteremo. Su una legge che rende obbligatoria per tutti i prodotti alimentari l'etichetta d'origine. Prima era richiesta solo in alcuni alimenti: carne, bovina, pollo, pesce, ortofrutta fresca, uova, miele. Insomma, è una cosa molto importante, anche perché sappiamo che è pesantissimo il danno della contraffazione al Made in Italy, ma soprattutto qui si inserisce, vedete, nel settore alimentare, qui si inserisce anche un tema legato alla salute, che di economico in questo caso ha poco. Ancora, per quello che riguarda i temi di questa giornata, ci occuperemo di un dato che adesso vi anticiperò in sintesi, drammatico se vogliamo, per quello che riguarda la mobilità sociale o l'assenza di mobilità sociale in questo paese, che riguarda i giovani. Perché lo dico? Perché oggi all'interno di un rapporto si è scoperto, il rapporto dell'Istat, che un giovane su 5 non studia né lavora. I ragazzi non più inseriti in un percorso scolastico formativo, ma che nemmeno lavorano, sono poco più di 2 milioni, una cifra impressionante, il 21,2% tra i 15 e i 29 anni, la quota più elevata a livello europeo. E questo non solo non ci fa piacere, ma fa anche il paio con la notizia che arriva dal Giappone. Voi direte: Giappone lontano, per carità. Ma il titolo è, insomma, altro che geishe. Le donne in Giappone invece hanno uno stipendio che è doppio rispetto a quello quasi maschile in alcuni casi, mentre sempre dal rapporto Istat emerge che una donna su due ha abbandonato la ricerca di lavoro in questo paese. E anche questo non ci fa piacere, parlando di cose serie, quindi di lavoro femminile inteso come lavoro serio. Ancora, per quello che riguarda i temi, parleremo più avanti poi del dibattito, se vogliamo, innescato dal direttore di Federmeccanica Santarelli, che ha detto: attenzione, bisogna andare oltre il modello contrattuale del gennaio 2009, queste sono le conseguenze lo possiamo chiamare l'effetto Marchionne. Ha detto: il contratto aziendale deve poter essere sostitutivo, non integrativo, di quello nazionale. Ovviamente bisognerà avere certe regole sulla rappresentanza, però insomma Santarelli è stato chiesto: ma questo vuol dire la morte del contratto nazionale? Ha detto: no, perché Federmeccanica ha 12.000 aziende associate, il contratto nazionale sarà usato dalla stragrande maggioranza, da 11.500, però chi ha un contratto aziendale deve poterlo utilizzare in maniera sostitutiva, che vuol dire in questo caso proprio non guardare a quello nazionale. Non è un tema da poco, perché gli accordi del gennaio 2009 invece davano sì più spazio al contratto aziendale, ma lasciavano al contratto nazionale il livello di cornice, di individuare quello che appunto sono i minimi retributivi e quant'altro. Su questo molte reazioni. Bombassei, vicepresidente di Confindustria, dice: la proposta di Federmeccanica è di buonsenso. Il ministro del lavoro Sacconi dice: ma insomma, questa è materia delle parti sociali, non del governo. Invece Landini, numero uno della FIOM, dice: una proposta inaccettabile. Bonanni, numero uno della CIS, dice: beh, nessuno mette il carro davanti ai buoi. Però il tema c'è tutto, perché lo abbiamo già ricordato molte volte: una volta che la Fiat esce dal contratto nazionale per farsi il suo contratto, è ovvio che questo in qualche modo apre la strada, traccia il solco, usate l'espressione che volete, per altre formule come questa, perché non è che solo la Fiat possa fare una cosa del genere, è il ragionamento di altre imprese. E poi ascolteremo anche un passaggio dell'intervento alla conferenza stampa di Barack Obama. Qui ci riferiamo invece all'incontro col premier cinese Hu Jintao. Tra l'altro segnalo che proprio in occasione della visita del premier cinese a Washington, il renminbi o lo yuan ha toccato i valori massimi degli ultimi anni nei confronti del dollaro statunitense. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, partiamo dalla borsa, come sempre, più 0,4% per quello che riguarda Milano, meno 0,7% invece Francoforte, meno 0,8% Parigi, meno 1,1% Londra, invariato il Dow Jones. L'euro è forte, relativamente, ci mancherebbe, a quota quasi 1,35%. Perché Milano va meglio delle altre borse europee? Beh, sostanzialmente per Buzzi Unice in più 5,40%, ma anche per un titolo bancario come la Popolare di Milano più 5%, e poi Fiat Industrial, quindi camion e trattori più 2,6%, Unicredit più 2,5%, Enel più 2,1%, Mediobanca più 2% secco in questo momento, Enel più 1,6%, Banco Popolare più 1,5%, Lottomatica più 1,3%, Snam più 1,1, Monte dei Paschi più 1, UbiBanca più 0,90%. E poi c'è Steel Microelectronics invece che perde il 3,95%, e di nuovo Fiat sul settore auto che cede il 3,92%, ultimo prezzo per azione 7,50€. Faccio comunque notare che se sommiamo i 7,50€ di Fiat Auto con i 10€ che quota adesso Fiat Industrial fa 17,50€, anche un po' di più, 17,80€, ben al di sopra dei 14,50€ con cui aveva chiuso, vado a memoria, il 30 dicembre, l'ultima volta che fu trattato il titolo Fiat, diciamo come unico titolo del gruppo. Non è solo Fiat Auto per andare male. Steel Microelectronics, dopo il grosso balzo di ieri, vede prevalere oggi i realizzi, meno 4%, Bulgari e il lusso in generale in difficoltà, meno 3,80 Bulgari, meno 2,94 Luxottica, meno 2,80 Ansaldo, meno 2% Exor, meno 1,90 Pirelli e anche Autogrill e anche Fondiere Assai, meno 1,70 Saipem, meno 0,7% Mediolanum. €15,43, mi fate notare, avete ragione, mi sono sbagliato di poco, €15,40 ho detto, e comunque siamo 2€ abbondantemente sopra il prezzo del 30 dicembre per Fiat, e quindi ancora guadagna e non poco il titolo, perché siamo intorno al 15% rispetto al prezzo di chiusura di quando era tutto raggruppato sotto il titolo Fiat. Ancora volete sapere di Eni? Eni perde lo 0,40% e Telecom meno 0,30%. Vabbè, altre notizie in breve le daremo più avanti, non ci possiamo stare adesso, sono palesemente, insomma, troppe le notizie in breve oggi da leggere, ve le ricorderemo alle 18.05 quando rifaremo poi anche le notizie principali della giornata. Passiamo al primo tema e mi riferisco al Made in Italy, tanto degli altri temi abbiamo già detto, del PIL cinese, volete sapere, è cresciuto del 10% nel 2010, la Germania ha rivisto al rialzo la crescita per il 2011, più 2,3%, la Merkel ha detto non si ritorna al marco, non c'è nessun bisogno, tanto l'euro è di fatto gestito dalla Germania, per cui questa è la battuta mia. Bene, anche il confronto Barack Obama e Hu Jintao hanno firmato accordi per $45 miliardi, di cui 200 aerei Boeing. E dicevo che la valuta cinese, confermo, è ai massimi da 17 anni nei confronti del dollaro. Sapete che questo è un tema di tensione tra Stati Uniti e Cina. Volete, mamma mia quante cose volete oggi, volete anche sapere del petrolio, perfetto, 91,82 dollari al barile, e ancora l'oro invece è stabile a 1367 dollari l'oncia. Oggi chiede subito un ascoltatore: ma oggi non c'è spazio per l'adulazione a Marchionne? Ma no, aspetti, abbia fiducia, arriviamo alle 18.10, parleremo appunto del Marchionne apripista, rompighiaccio, ripeto, comunque uno la pensi, ha rotto un paradigma Marchionne, non solo quello, prima di tutto però l'alimentazione made in Italy, in questo caso sul fronte economico ma anche sul fronte della salute. Allora, il Made in Italy serve a tutelare la nostra produzione. Delle volte abbiamo avuto anche opinioni un po' scettiche, penso alla legge Versace-Reguzzoni, che secondo me è un po' boomerang per l'Italia, è un po' come il marito cornuto che si taglia la cosa più cara perché rischia poi di penalizzare le nostre imprese quando producono fuori, e invece di non bloccare l'importazione di beni prodotti dalla Cina. Ma comunque, altro tema è quello del Made in Italy alimentare. Qui però, più che di falso, inteso come falso in senso stretto, qui parliamo di sounding Made in Italy, cioè che sembra italiano, è più una contraffazione che riguarda tutti i prodotti che vengono spacciati in giro per il mondo come italiani, perché ci mettono la bandiera, lo chiamano parmesan, lo chiamano in altri modi, e poi in realtà italiani non sono. In questa accezione la contraffazione vale, cito a memoria, circa 50 miliardi di euro, la contraffazione alimentare del Made in Italy. Per contraffazione, ripeto, però intendiamo non il prodotto che viene palesemente falsificato, ma tutto ciò che viene venduto come italiano senza esserlo. E allora applaude la Coldiretti, applaudono varie associazioni, anche Slow Food, alla legge che ieri è passata in Commissione Agricoltura alla Camera, ossia l'etichetta obbligatoria per tutti i prodotti alimentari, etichetta d'origine, prima richiesta solo per alcuni alimenti. Previsto anche l'obbligo di indicazione in etichetta dell'eventuale uso di ingredienti con presenza di OGM, qui fortemente voluta dall'allora ministro dell'agricoltura Zaia, non a caso oggi il quotidiano La Padania titola: ha vinto Zaia. Per gli alimenti trasformati l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata. Contrasto anche la pubblicità ingannevole: l'origine degli alimenti dovrà essere prevista obbligatoriamente in etichetta, non potrà essere omessa nella comunicazione commerciale. Dicevo, quasi tutti contenti, un po' perplessa invece Federalimentare, che è l'associazione di Confindustria che conta 17 associazioni di categoria, è più soddisfatta Coldiretti e anche Slow Food. Allora andiamo nell'ordine, ringrazio Daniele Rossi, direttore generale di Federalimentare, per averci raggiunto in collegamento, buonasera. Buonasera. Grazie anche al direttore del centro studi di Slow Food, Cinzia Scaffidi, buonasera anche a lei. Buonasera. Slow Food, per chi non lo sapesse, insomma, è un mito per i buon gustai, i presidi sul territorio, c'è chi vi accusa di essere troppo elitario, ma comunque non voglio parlare adesso, non voglio rubare il programma a Davide Paolini, voglio occuparmi di elemento economico e anche di tutela di quello che mangiamo. Dicevo, i primi a esultare già ieri di fronte a Montecitorio, la Coldiretti, e quindi gli agricoltori che si riconoscono nella Coldiretti, Laura Bettini, oggi la nostra Laura Bettini ha intervistato il presidente Sergio Marini. L'approvazione della legge rappresenta l'esito anzitutto di un processo di responsabilità del legislatore nazionale, che torna su un argomento oggetto di armonizzazione. Le norme tecniche in materia di etichettatura dal 1979 rappresentano in Europa un argomento di coesione verso la costruzione di un mercato interno con l'esclusione di ostacoli agli scambi di alimenti. Il legislatore torna però su un punto, quello dell'origine geografica, che nella disciplina comunitaria non rappresenta una dicitura obbligatoria se non quando dalla sua assenza ne derivi un inganno per il consumatore. Si vuol dire, cioè, di norma, che quando manca nell'etichettatura di un prodotto la sua provenienza geografica, questa sia una dicitura irrilevante, non influente nelle decisioni di acquisto. Invece il mercato è cambiato, ed è cambiato in funzione anche delle crisi alimentari. Di ciò il legislatore italiano si è reso consapevole e intende introdurre un obbligo che parta dalla nostra disciplina e poi costituisca anche la base per un allargamento europeo, così come è accaduto per l'olio extravergine di oliva. Quindi si riparte per tutti i prodotti, trasformati e non trasformati, per un braccio di ferro che speriamo questa volta l'Europa voglia affrontare con una maggiore consapevolezza. Allora, dicevo, tutela del made in, su cui siamo a favore in generale, non senza, diciamo, farsi troppo del male, diventare troppo talebani, e tutela anche della salute, perché ricorderete tutti gli scandali sanitari, insomma, giugno 2010 la mozzarella blu prodotta in Germania, ottobre 2010 sequestrati quintali di pasta di pomodoro cinese etichettata come italiana, no? E poi a gennaio 2011 uova e carne di maiale, la diossina sempre dalla Germania. Ora la Germania è meglio che produca metal meccanico e manifatturiero, e magari se continua così lasci fare a noi l'alimentare, che per l'Italia è il secondo settore produttivo proprio dopo la meccanica. Non tutti se lo ricordano. Noi siamo, abbiamo 120 miliardi di fatturato, di cui 19 miliardi destinati all'export. Peccato che il falso made in Italy alimentare valga 2,5 volte il nostro export. Vale 380.000 addetti in settore, distribuiti in 6.350 imprese. Noi abbiamo anche il primato di prodotti tipici, 214 a denominazione. Allora, adesso sentiremo anche la Cinzia Scaffidi. Ma direttore Rossi, perché voi avete espresso perplessità? Siete usciti con un'agenzia che dice: attenzione, questa legge potrebbe aumentare i costi dei prodotti fino al 15%. Due ragioni sono principali. Come lei ha ben detto, l'industria alimentare italiana è un po' un fiore all'occhiello del nostro paese. Esportiamo 20 miliardi di euro di fatturato, abbiamo più 10% di export quest'anno, che sono un anno difficilissimo, di crisi in quasi tutti i paesi europei e nel mondo. E manteniamo anche standard produttivi elevati, non perdiamo occupazione. È veramente un settore trainante del Made in Italy. E una legge di questo tipo, fatta solo per i produttori del nostro paese, li penalizza. Le stesse difficoltà, gli stessi vincoli non li hanno i nostri colleghi tedeschi, che abbiamo visto come lavorano, i nostri colleghi francesi e così via. Quindi la domanda è questa: è giusto fare le battaglie per la corretta informazione del consumatore, al limite anche sulla composizione, sull'origine, sulle ricette e tutto quello che può riguardare il prodotto alimentare? Però facciamola in Europa, facciamola tutti insieme in Europa, affinché le norme vengano armonizzate e tutti i concorrenti partano alla pari nella nostra gara sull'eccellenza, sui prodotti alimentari. Perché dobbiamo punirci e penalizzare proprio i produttori italiani, che invece dimostrano maggiore qualità e sicurezza? Sì, mi sembra di riascoltare un déjà vu. Le obiezioni che venivano mosse alla legge Reguzzoni Versace sul made in, che riguardava il tessile e l'abbigliamento, e cioè: se noi mettiamo delle regole così stringenti che un produttore italiano, solo perché fa due passaggi, questo valeva per il tessile e abbigliamento, all'estero non può più scrivere made in Italy, ma deve scrivere partially, adesso non mi ricordo più, made, e comunque deve mettere anche che magari il confezionamento e il tessuto viene dalla Cina, mentre in Francia possono continuare a scrivere Made in France, in Spagna Made in Spain, ci facciamo del male da soli. Cioè, o la facciamo a livello europeo, o se no. Lei mi sembra stia utilizzando una posizione simile, cioè noi andiamo a chiedere un insieme di... No, non solo, ma noi abbiamo un altro, mi perdoni se la interrompo, no, abbiamo un altro problema, è che il nostro paese non è autosufficiente sul piano della produzione agricola. Quindi noi abbiamo pochissimi settori, quello dell'uva, quello dell'avicolo, uova e polli, e forse basta, che hanno autonomia nelle materie prime agricole, nell'approvvigionamento. Quindi ci troviamo molto esposti sulle materie prime dall'estero, non solo europeo ma internazionale. Quindi noi siamo leader, per esempio, giusto per citare un esempio, siamo leader nel mondo sul caffè, ma non produciamo un chicco di caffè. Siamo leader al mondo nel cioccolato e nei prodotti derivati dal cioccolato e non produciamo. Anche il grano duro lo importiamo in parte dall'estero. L'olio d'oliva, un 40%, lo importiamo dall'estero perché neanche sull'olio siamo autosufficienti in Italia. E quindi abbiamo già da tempo una dipendenza dall'estero importante. Perché punirci quando in realtà il Made in Italy non è solo l'ingrediente, ma è anche la capacità di trasformare dei nostri imprenditori? Quindi, per essere un po' però anche brutali, lei dice, siccome l'olio noi spesso lo facciamo passare per italiano, ma è spagnolo? No, chi lo fa passare per italiano? Ogni tanto, dai. Qual è il problema? Io non capisco, cioè, qual è il problema? Perché o mi dice, insomma, noi importiamo molto olio e adesso siamo obbligati a scrivere con maggior dettaglio da dove avviene quest'olio. Però a livello europeo, non a livello italiano. Cioè a livello europeo adesso è obbligatorio. Esatto. Lei vorrebbe la stessa cosa anche per gli altri prodotti, cioè che la legge fosse obbligatoria per tutti. Per cui se io compro un olio francese che ha dell'olio spagnolo, in questo momento leggo che viene, che c'è dell'olio che arriva dalla Spagna e quindi tutti giochiamo sullo stesso campo. Una domanda però, non trova che ci sia un po' di controsenso tra un paese che da un lato fa passare la legge sul Made in Italy agroalimentare, dicevo, parte di questo merito si deve attribuire all'allora ministro Luca Zaia, e poi un altro ministro, se non ricordo male, Calderoli, che è sempre della Lega, ha di fatto depenalizzato il reato sulla sofisticazione alimentare, insomma, non è che... Sì, questo però non è vero, nel senso che c'è stata un'interpretazione da parte della stampa a seguito di una sentenza, esatto, però non è vero perché in effetti sembrava che fosse abrogata la 283, la famosa legge del 62 che prevede appunto le sanzioni per le sofisticazioni alimentari, anche il penale, quella è rimasta in vita perché è codice penale e codice civile, quindi in realtà è stata, diciamo, un errore pompata dalla stampa da parte di alcuna stampa, che poi è stato comunque recuperato immediatamente. Ecco, io vorrei capire però invece con, che poi anche l'obiezione che ho per Daniele Rossi con Cinzia Scaffidi, direttore del Centro Studi di Slow Food, non potrebbe invece essere questa quella che si chiama in gergo la best practice, cioè noi aprire la strada, diventare il paese pilota per quello che poi deve essere fatto a livello europeo, cioè se anche noi adottiamo dei comportamenti più stringenti, di maggiore tutela del non tanto del marchio ma dell'indicazione dell'uso di ingredienti con presenza di OGM, l'etichetta d'origine obbligatoria, diventiamo un modello per il resto d'Europa? Ma io sono molto d'accordo su questa visione, nel senso che peraltro l'abbiamo già fatto. Tutta la vicenda della legge sull'etichettatura dell'olio extravergine di oliva ha fatto questo percorso qui. Noi abbiamo iniziato nel 98 con una legge che andava sicuramente oltre quelle che erano in quel momento le sensibilità e le istanze europee, e dopo, per carità, 12 anni di calvario giuridico, però siamo arrivati ad avere una legge europea per l'etichettatura dell'olio che dice che l'olio si chiama italiano se le olive sono italiane. Non era difficilissimo da cogliere, era un principio relativamente semplice, tuttavia ha richiesto 12 anni di negoziazioni. Ora siamo partiti di nuovo con una legge che sicuramente va oltre quelle che sono le attuali obbligatorietà del quadro legislativo europeo, ed è di oggi peraltro una richiesta di chiarimenti da parte della Commissione europea all'Italia. Sì, ci stavo arrivando, ha ragione. Che dice proprio questa cosa qua, dice ma da una parte sembra che stiate anticipando il dibattito a livello europeo, dall'altro però ricordatevi che in questo momento siete fuori da quella... Sì, la disciplina, come si dice in gergo, è normata a livello europeo, non a livello di singolo Stato-Nazione. L'Europa ha fatto infatti sapere, attenzione, da un lato ci stiamo arrivando anche noi, e quindi però ancora non è legge europea, chiederemo chiaramente all'Italia, ma soprattutto... se per la carne fresca la legge italiana sull'etichettatura obbligatoria dei prodotti alimentari anticipa un regolamento che dovrebbe entrare in vigore in tutta l'Unione Europea, quindi dice vabbè, siete arrivati un po' presto, ma va bene, per i prodotti trasformati la normativa italiana pone dei problemi perché va al di là di quanto previsto dalla norma comunitaria. Magari chiederò un aiuto anche al direttore di Federalimentare alimentare per aiutarmi a, a capire quanto va al di là. Dopo il meteo e la pubblicità, però, dottoressa Scaffidi, io volevo chiedere una cosa. Non è che voi siete a favore di questa legge più restrittiva, perché voi in realtà, a voi non ve ne frega nulla, mi passi il tema dell'industria alimentare. A voi interessano le nicchie, i presidi sul territorio, c'è una cosa molto bella, molto anche cara, molto costosa, molto sana, un po' snob, no? Delle volte, un po' così. E, ma un paese vive anche di industria alimentare, non solo della cipolla di Tropea o del... così, o delle lenticchie umbre, cioè anche l'industria sui mercati. Dopo il meteo e la pubblicità, la risposta, grazie. 349-238-6666 per i vostri sms. ...17:39 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, chiedo alla direttrice del centro studi di Slow Food, insomma, se la vostra posizione non sia così entusiasta, perché voi vi curate più della parte, diciamo così, di qualità, di altissima qualità, ma poco industriale della produzione alimentare. Questo è un modo di leggerla. La ragione per cui questa legge ci piace così tanto è che ribalta un principio che invece sta alla base dell'attuale normativa europea, che dice soltanto in alcuni casi non dire qual è l'origine di un prodotto può rappresentare la base per un inganno del consumatore. Quello che dice invece questa legge qui è che sempre eliminare l'origine è una ragione di inganno per un consumatore. Questo è il punto chiave di questa legge ed è quello che diceva poco fa Stefano Masini di Coldiretti. L'elemento di rivoluzione, di forzatura, di anticipazione di questa legge sta in questo, nel dire l'informazione al consumatore è dovuta. Allora, in Italia c'è una nicchia, se la vuole chiamare così, di 60 milioni di consumatori ai quali questa legge offre uno strumento di trasparenza. Non è necessario che il prodotto sia italiano. Questa legge, se usata correttamente da produttori onesti, intelligenti, che hanno voglia di fare eccellenza, può diventare un prodotto uno strumento di protezione del Made in Italy. Ma se invece viene semplicemente usata così com'è, è semplicemente uno strumento di trasparenza. Allora, se io sono una consumatrice italiana che non ha nessuna ragione particolare per voler consumare Made in Italy e voglio consumare Made in Germany perché mi piace così, lo devo poter fare. O perché devo costa sapere, meno. O perché costa meno. Costa meno, perché ho deciso di provare l'ebbrezza della diossina, qualunque cosa. Allora. Però è nel mio diritto consumare soltanto prodotti non italiani? Devo saperlo che non sono italiani. Devo saperlo se sono italiani e non li voglio, per esempio. Se io avessi una maggiore fiducia nel latte francese o svizzero anziché nel latte italiano, devo poter scegliere questa cosa qua. Questo è semplicemente una questione di diritti ed è importante, perché poi io non credo che l'attuale allarme diossina sia frutto di un vuoto normativo. L'attuale allarme diossina è frutto di una disonestà nella produzione, le norme ce l'avevano in Germania, semplicemente le hanno violate, quindi però in questo momento, essendoci quell'allarme lì, se io potessi sapere esattamente gli ingredienti delle cose che sto consumando da dove vengono, avrei la possibilità di dire sono tedeschi, non li consumo, oppure sono tedeschi ma non credo che sia un problema e quindi li consumo lo stesso, ma intanto decido io, non decide qualcun altro per me. Allora, quando si parla di sovranità alimentare, di diritto all'informazione, o si raccontano le storie del lupo, oppure poi queste storie qua si traducono in strumenti normativi come una legge di questo genere, che magari ci sarebbe anche piaciuta di più, aveva una versione originale meno emendata, che poteva anche essere più dura, però così è comunque un buono strumento. E anche, quell'articoletto sulla pubblicità che affianca quelli sulle etichette è altrettanto importante, perché io posso anche se io ho il diritto di omettere, perché poi è l'eterno problema anche nel privato, l'omissione è una bugia. Sì. No, ma ho capito la vostra posizione. Voi dite, diamo tutte le informazioni, poi se non vuoi comprare perché costa meno il prodotto che viene da alcuni paesi, però almeno lo sa, oppure se vuole invece comprare. E non è detto che dare le informazioni costi necessariamente di più. Direttore Rossi, due domande. Una che arriva dagli ascoltatori: perché voi dite che costa il 15% in più? Cioè, scrivere un'etichetta e aggiungere, non so, il prodotto X viene dalla Russia piuttosto che non costa, non è questo che costa in più, che genera un costo aggiuntivo. La seconda domanda invece mi aiuta a capire cos'è che l'Unione Europea contesta la legge per quello che riguarda i prodotti trasformati nella normativa italiana. Grazie. Sì, allora, per quanto riguarda la prima domanda è molto semplice. Noi non vogliamo ingannare il consumatore, ha ragione lì Cinzia Scafidi, nessuno vuole fare comunicazioni ingannevoli. Per essere sicuri che un ingrediente di cui noi siamo ovviamente responsabili arrivi effettivamente da un paese europeo o da un paese extraeuropeo, noi dobbiamo segregare quella filiera. Cioè, per essere sicuri che un grano viene dall'Ucraina o che viene dall'Australia o dall'America, noi comprandolo dai trader dobbiamo tracciare tutta la filiera e fare in modo che quel grano, che quell'olio, che quel pomodoro venga effettivamente da quel paese. Quindi, per dare una comunicazione e un'informazione corretta e veritiera, abbiamo dei costi di segregazione di alcuni prodotti alimentari, di alcune materie prime agricole alimentari lungo la filiera. Seconda cosa, abbiamo dei problemi, le immagini di un prodotto dolciari, un panettone, un biscotto o anche un sottaceto che ha 20 verdure interne, noi dobbiamo effettivamente ricostruire tutta l'origine di tutte le 20 verdure, perché la prevalenza vale solo su alcune filiere, quindi in realtà anche lì c'è un obbligo di interrompere i turni, cambiare formati, etichette e fare in modo che continuativamente ci sia collegamento fra gli ingredienti. Terza cosa, non secondaria, è l'informazione del consumatore, cioè nel senso che una volta che sia una disciplina, in questo caso italiana, ma se venisse anche quella europea ben venga, una disciplina europea, noi dobbiamo informare il consumatore sulle qualità. Cioè, dobbiamo a quel punto raccontare veramente al consumatore, bisogna farlo con un'attività di comunicazione straordinaria che costa ovviamente alle aziende, perché noi adottiamo un latte svizzero, come diceva giustamente. Però questa è comunque una cosa buona. Cioè, se voi raccontate al consumatore perché usate un certo tipo di latte, le differenti qualità, esatto, ma questa è una cosa buonissima. Sì. Noi infatti non diciamo che aumentare i costi è una cosa di per sé. Mi date un'informazione in più. Mi dici una battuta, perché devo fare la borsa e poi parlare delle giovani donne italiane, quelle che cercano un lavoro serio, chiaramente. Io rido poco purtroppo in questo periodo, ma vabbè. Mi dice perché la normativa europea, perché l'Europa ce l'ha con... Perché l'Europa sta disciplinando, e tutti gli operatori lo sanno, anche Franco Marini di Coldiretti Stefano Masini di Coldiretti, diciamo, l'Europa sta disciplinando esattamente questo. A fine anno dovrebbe uscire il nuovo regolamento europeo di informazione del consumatore e stanno pensando di disciplinare l'origine della carne fresca. Non solo la carne bovina, oggi è il pesce, ma anche i polli e i maiali, il suino. E invece sui prodotti trasformati è più complicato, per cui l'Europa sta scegliendo sostanzialmente di disciplinare tutta l'origine del fresco per i consumatori e invece di valutare la prevalenza sul trasformato. Bene, bene. Allora, io ho capito questo, ho capito che da un lato la posizione di Slow Food, anche da Coldiretti, forse non tiene conto dei costi dell'industria alimentare e quant'altro, e a mio avviso è sempre sbagliato in un mercato europeo che un paese vada avanti da solo, perché rischiamo di autopenalizzarci e di farci il male da soli. Però ho anche capito, lo dico anche in maniera molto tranquilla, la Federa Alimentare, che un po' di informazioni in più, se poi prese a livello europeo, male non ci fanno. Se l'Italia traccia una strada di best practice, di modello, e l'Europa diventa un modello rispetto allo schifio che si mangia negli Stati Uniti, in cui non ti indicano nemmeno delle volte i conservanti e i coloranti, voglio dire, perché no vivere in un paese o in un continente più corretto nell'informazione, di fatto quindi anche che ti permette di mangiare più sano. Grazie a ambedue e buon anno, visto che ancora non ve l'avevo fatto, per tutto il mese di gennaio continuiamo. Grazie al direttore generale di Federa Alimentare Daniele Rossi e grazie alla direttrice del Centro Studi Slow Food Cinzia Scafidi. Grazie a voi. Arrivederci, buonasera. Arrivederci. Allora, 17.48, sono in ritardo col traffico subito, poi la borsa, poi i giovani in Italia, uno su cinque ne studia né lavora, non voglio battute, già le vedo, per favore, il tema è serissimo e noi non ci occupiamo di altre cose, se non di temi, perlomeno cerchiamo di essere seri. E delle donne italiane che una su due ha rinunciato a cercare lavoro, mentre dal Giappone arriva la notizia che, altro che geishe, lì guadagnano più in media degli uomini. 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. La borsa dunque più 0,56% Milano, mentre negative sia Parigi meno 0,90, Francoforte meno 0,80, Londra meno 1,30, l'America è invariata. Eleonora Micheli, Radio Colle, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, Fiat anche oggi doppia velocità, Fiat auto meno 3,70, Fiat invece camion e trattori più 4%. Fiat S.P.A. ha subito, diciamo, la debolezza di tutto il settore europeo dell'auto, il cui sottoindice ha lasciato sul parterre il 2% circa. Non ha, appunto, non si è risparmiata Fiat, ma tra l'altro nelle prime settimane dell'anno è il titolo che aveva corso di più in assoluto, aveva infatti toccato il picco scorso 17 gennaio, e da inizio anno il guadagno era stato di oltre il 15%, per cui sono scattate un po' di prese di beneficio. Fiat Industrial è corso meno, semmai si può dire che il bilancio per coloro che hanno tutte e due le Fiat continua a essere assolutamente positivo, più 17% dall'ultima quotazione della Fiat vecchia che conteneva tutte e due business. Allora, invece, il motivo per cui oggi Milano va molto meglio è anche, si chiama anche Banca Popolare di Milano più 5,20, Unicredito più 3%, Mediobanca più 2,5%, Banca Popolare più 1,70 e Monte dei Paschi più 1,20, Ubibanca più 1,20, bene, molto bene anche Enel più 2,40% e l'Automatica sulla scia del contratto di gestione della lotteria dell'Illinois guadagna un altro 1,7%. Le banche? Sì, le banche si sono riscosse tutte, in verità è già da qualche giorno che tendono a recuperare punti, del resto erano scivolate molto, ricordiamo che Unicredit la scorsa settimana quotava 1,4 euro, si è riportato quindi a 1,78 euro, oggi, come hai detto tu, ha fatto più 3%, c'è un po' un riposizionamento dei portafogli nei confronti delle banche che soprattutto sul finire dell'anno avevano perso particolarmente punti. Poi alcuni hanno corso di più, alcuni titoli, BPM ha fatto più 5,18%, in questo caso non ne vuoi parlare, ma è proprio un report di una banca d'affari che ha riacceso i riflettori più che rispetto ad altri titoli. Va bene, va bene, va bene, ogni tanto mi infili il report, va bene. L'Automatica l'abbiamo detta, Enel e Enel Green Power, perché anche Enel Green Power si risveglia, più 1,70%, sì, l'ex matricola, sì prego. In questo caso, appunto, quando oggi è una giornata appunto un po' di incertezza, abbiamo visto che le altre borse europee hanno chiuso deboli, comunque nel corso della giornata i titoli anche gli indici hanno più volte cambiato direzione, ci si posiziona su titoli considerati più difensivi dagli utili più sicuri, quindi Enel ed Enel Green Power. Ancora giustamente chiedete di Buzzi Unicem sia più 5,30%. Buzzi Unicem oggi si è letteralmente risvegliata, è andata bene però con tutto il comparto, diciamo, del cemento europeo, e quindi poi ci sono anche stati, come dicono gli analisti tecnici, segnali tecnici, ha superato la soglia dei 9 euro e questo quindi ha indotto un po' di ordini in acquisto in più. Allora, oggi c'era anche una debuttante, no? L'Unione Alberghi Italiani? Esatto. Dico bene? Tu hai intervistato Alessandro Rosso, che è appunto il presidente del gruppo, sono 170 dipendenti, circa 500 clienti attivi, leader italiano nel settore congressi, eventi e meeting. Allora sentiamo perché sbarca in borsa chi ha un'attività nel settore congressuale e appunto della convegnistica. In questo momento la borsa non è il nostro obiettivo primario, sicuramente la teniamo in considerazione, in passato ci abbiamo pensato, ma purtroppo le condizioni non sono state quelle corrette. In questo momento pensiamo di crescere internazionalmente attraverso, diciamo, l'ingresso di un fondo. Noi abbiamo come obiettivo quello di costruire una leadership mondiale, in quanto noi siamo già leader italiani e siamo fra i primi tre in Europa, attraverso una serie serie di acquisizioni esterne di aziende leader anche loro nei loro settori e la creazione di alcune nuove sedi, soprattutto nella parte orientale del continente. Nel 2010 si chiude la fase, diciamo, della curva in discesa, e quindi anche qui contiamo di chiudere con una settantina di milioni di fatturato, in discesa di un altro 5%, e dopodiché invece 2011 è l'anno della ripresa, in quanto fra acquisizioni e crescita il risultato potrebbe crescere di un 40-50%. Puntiamo su due aree importanti, una agli Stati Uniti, poi soprattutto l'area orientale, e quindi la Cina, Singapore, la Malesia. Non fa parte del gruppo Alessandro Rosso, ma appartiene comunque alla famiglia. Come sta andando l'hotel a 7 stelle a Milano? Ma il 7 stelle è uno startup del 2007, è ancora in una fase di grande crescita. L'anno scorso abbiamo fatto più 40% rispetto all'anno precedente. Siamo sempre comunque dei numeri che sono ancora bassi rispetto ai nostri obiettivi. Allora, quindi se Unione Alberghi Italiani oggi fa più 28,5%, questo è il dato che volevate sapere, Alessandro Rosso non pensa subito alla borsa, ma sicuramente potrebbe arrivarci. Più 28,5% è un'ora che si giustifica come, giusto per capire? Sì, più 28% rispetto al prezzo di collocamento. Certo. Questa mattina appunto è stato detto che il gruppo conta di diventare, proprio anche per merito dell'operazione di quotazione, un polo di consolidamento nel settore. Staremo a vedere, il mercato sicuramente ci crede. Se ci crede il mercato, a noi va bene. Comunque, il peggior titolo oggi, sotto, sentite di sfondo la sigla, dobbiamo chiudere. Neurosoft meno 5,47%, e poi Fullsix meno 4,96%, si sgonfia un po' Pininfarina meno 4,93%, mentre Buzzi Unicem è anche il secondo miglior titolo in assoluto, anzi il terzo miglior titolo in assoluto dopo Poligrafica San Faustino più 9,90%. Grazie Leonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, il GR, poi rapporto Istat sui giovani e in particolar modo sulle giovani donne nel mondo del lavoro. 349-238-6666, ve l'ho detto, è il numero per gli SMS. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. E allora, dopo aver commentato la disciplina sul Made in Italy alimentare, aver parlato anche di borsa, tocchiamo adesso un tema. Io mi rendo conto che insomma, in queste giornate sia facile fare dell'ironia, però il tema è serissimo, riguarda i giovani in generale e in caso specifico le giovani donne, e al di là di tutto quello che leggiamo sui giornali in questi giorni c'è un tema molto serio che riguarda il fatto che il nostro paese, lo dice l'Istat, non lo dico io chiaramente, è all'ultimo posto nei 27 paesi dell'Unione Europea quanto a donne che lavorano. Addirittura una donna su due non ha lavoro e non lo cerca più. Oddio, non siamo proprio gli ultimi, c'è Malta che è messa peggio di noi. Ancora più preoccupante, a mio avviso, il dato complessivo diffuso oggi dall'Istat nel rapporto Noi Italia. 349-238-6666 per i vostri SMS. Eh sì, perché un giovane su cinque non studia né lavora. Lo dice l'Istat, il dato è riferito al 2009, sono poco più di 2 milioni, il 21% dei ragazzi che hanno tra i 15 e i 29 anni, quelli che né studiano né lavorano, è la quota più elevata a livello europeo. E dicevo, il tasso di inattività femminile italiano nel 2009 è stato del 48,9%, il secondo più alto dell'Unione Europea, appunto dopo quello di Malta. L'ho messo in relazione a una notizia che può sembrare quasi di colore. Il titolo è arrivato dall'agenzia Geisha Aki: le donne in Giappone ora guadagnano più degli uomini. È arrivato il tanto atteso sorpasso in Giappone quanto a salari femminili rispetto ai salari dei cosiddetti maschietti. C'è una scritta alla Triennale di Milano con lo spray che dice: il futuro non è più quello di una volta. Ecco, da qui vorrei partire con Pierluigi Celli, che è direttore generale della LUISS e ha scritto tanti libri. L'ultimo si chiama La Generazione Tradita, casa editrice Mondadori. Direttore Celli, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Allora, il futuro non è più quello di una volta, ammesso che vi sia un futuro. Non so, la cosa che più la sorprende è il dato sulla componente complessiva dei giovani. Uno su cinque non studia né lavora. 2 milioni di persone, il massimo in Europa, o la quota di inattività femminile al 48,9%, incredibile. Dunque, diciamo che questi sono dati del 2009, mi pare di aver sentito. 2009. Sì, i dati del 2010 credo saranno ancora peggiori. Quindi siamo in trend negativo. È chiaro che poi quando le condizioni di lavoro sono così critiche, chi ne soffre di più è la componente più debole nel sistema, che è ancora quella femminile in Italia. Anche se, per esempio, nelle università ormai il numero di donne tende a superare quello degli uomini, in ogni caso tende a superare quello degli uomini per lauree, tempi di laurea e votazione di laurea. Quindi da questo punto di vista in realtà noi abbiamo un mercato del lavoro che assorbe meno la componente femminile e in qualche modo penalizza la componente femminile, che sta dimostrando una tenuta maggiore dal punto di vista del merito e dei risultati. Quindi da questo punto di vista credo ci sia parecchio da ragionare. Ma tenendo presente che chiaramente la crisi ha complicato le cose, ma le cose sono... Celli, però la crisi c'è per tutti, per carità. Noi abbiamo, la Germania l'ha avuta, la Francia l'ha avuta un po' meno di noi, ma insomma non è che siamo il paese che ha più sofferto in assoluto la crisi. Cioè, perché però noi siamo agli ultimi posti in questa classifica? Perché in realtà noi la crisi l'abbiamo affrontata meglio per quanto riguarda gli occupati. Mentre veniamo da una lunga pratica di disattenzione per quanto riguarda quelli che al lavoro ci devono arrivare. Non abbiamo strumenti efficaci, non abbiamo una scuola che ha in qualche modo preparato i ragazzi al lavoro e non semplicemente a imparare delle cose. Una cosa è imparare delle cose, una cosa è sapere cosa si deve affrontare poi nel mondo del lavoro. E quindi il momento di passaggio diventa un momento molto più complicato che da altre parti. Gli investimenti sono stati fatti in maniera molto relativa su questo terreno, e soprattutto tutte quelle che sono provvidenze pensabili, quindi contratti particolari, contratti di accesso minimi garantiti, tutela sanitaria, eccetera, eccetera, sono tutte cose che in realtà noi abbiamo affrontato in maniera molto provvisoria e molto spettacolare. Mi interessava capire anche perché, se posso usare il termine culturalmente, questo paese sta tradendo, ma non lo dico in maniera moralistica, lo dico proprio guardando il dato dell'Istat nel rapporto noi Italia, le generazioni più giovani. Cioè, voglio dire, non è che all'estero, in Francia, in Spagna non esistono i vecchi, anzi, e non ci siano, diciamo, nei ruoli chiave persone che hanno ampiamente superato i 60 anni. Perché solo da noi però questo crea un meccanismo bloccato? Cioè, oppure lei mi dice, no, guardi che all'estero, e non sto parlando della classe politica, che la nostra è vecchia e quando è giovane, diciamo, lasciamo stare, ma diciamo, perché da noi, solo da noi, si crea questo ascensore bloccato? Ma l'ascensore bloccato si crea per tutta una serie di ragioni che sarebbe moltissimo, molto lungo spiegare. C'è un assetto scolastico che tende a selezionare al basso, nel senso che tutto sommato, nella misura in cui, come dire, il merito non è riconosciuto, le provvidenze, le borse di studio sono di quel tipo più o meno casuale e più o meno ridotto, eccetera, eccetera, chiaro che chi proviene da situazioni svantaggiate ha meno facilità nel proseguire gli studi, quindi ad arrivare in qualche modo ad un diploma, ad una laurea che poi sia spendibile sul mercato. Questo è un problema molto nostro, È chiaro che quando uno parla di futuro, per avere un futuro bisogna avere un presente. Se il presente è del tipo di quello che noi stiamo vivendo da molto tempo, di non crescita, di non evoluzione positiva, di non innovazione, di perdita, come dire, di potere nei mercati internazionali, di lentezza di adeguamento alle regole internazionali, tutto questo incide soprattutto su quelli che ancora un lavoro non ce l'hanno e hanno difficoltà ad entrarci. Io dico sempre che quanto più il lavoro si fa precario, spezzettato, temporalmente scandito, tanto più bisogna avere dei giovani che si presentino con una testa flessibile. Non è che il lavoro è flessibile, la testa deve essere flessibile. E la flessibilità significa preparare i ragazzi a capire che le regole non valgono per sempre, le regole del lavoro, le regole dei rapporti sì, economici internazionali. Sì, però a me sembra, Celli, che questi giovani siano anche troppo flessibili. Cioè, a me sembra che essere non flessibili, forse siamo più io e lei. Mi sbaglio. Non credo di no. Nel senso che è vero che i giovani, quindi, arrivano molto fragili e molto disorientati per tutta una serie di ragioni, perché queste sono anche le prime generazioni che non hanno una memoria condivisa, non hanno nulla a cui si possono legare collettivamente e quindi sono individualisti quasi naturalmente, per di più quindi, in qualche modo abituati ad una cultura che è largamente consumista, che è quindi tutta virata sul presente, a prendere tutto quello che è possibile, indipendentemente da quanto può essere più utile o meno, da quanto può essere in qualche modo quindi, scaglionato in un ranking di priorità. E tutto questo, se non si interviene a livello formativo, a livello educativo e formativo, e non solo a livello di istruzione, fa sì che questi siano meno preparati ad affrontare una sfida che è una sfida impegnativissima, perché non è più una sfida nazionale, è una sfida largamente internazionale, che si gioca con regole che valgono al livello di altre nazioni e che molto spesso non sono le regole con cui abbiamo giocato noi, nella nostra Italietta, nella nostra provincina, nel nostro localismo, eccetera, eccetera. Secondo lei la politica ha delle responsabilità in questo, sui giovani e sulle giovani? Io credo di sì, perché tutte queste cose, cioè non ci abbiamo più una politica economica, non abbiamo più neanche un tipo di programmazione che non è necessariamente quella di tipo sovietico, ma un'idea di come sviluppare questo paese, di dove investire, di dove mettere le risorse e di dove creare le condizioni perché i giovani in qualche modo abbiano attenzione e siano curati e non semplicemente guardati un po' con distacco, anche perché sono sempre meno irrilevanti, nel senso che i numeri a sfavore dei giovani di questa generazione sono sempre meno e quindi conteranno anche dal punto di vista del peso elettorale sempre di meno. Ecco, tutto questo contribuisce in qualche modo a scardinare la possibilità che il futuro sia qualcosa di appetibile, di prevedibile, di certo o quantomeno di programmabile. Grazie, vi torneremo, perché è un tema che trattiamo ciclicamente, ci interessava commentarlo oggi con il direttore generale della LUISS, Pierluigi Celli, grazie. Grazie a voi, buonasera. Avevo promesso che non avrei letto alcun messaggio che univa il tema serissimo dei giovani e delle giovani che non riescono a trovare lavoro e i temi poco seri di cui leggiamo oggi sui giornali, e quindi non li leggo, anche se mi costa un po' di fatica, traffico. Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia per parlare delle dichiarazioni del direttore generale di Federmeccanica. Devo leggere però un messaggio che posso leggere. E dice: più che flessibili ai giovani si chiede di essere genuflessibili. Io l'ho detto a Celli, non sono così d'accordo sull'idea che i giovani siano poco flessibili, anzi. Forse sono anche troppo flessibili rispetto ad altri, d'accordo con lui invece che non sappiano fare gruppo, che non abbiano identità condivisa, e d'accordo con lui che se ne stia allegramente sbattendo il resto del paese, e così come anche delle donne, visto che abbiamo il poco invidiabile primato di essere ultimi in classifica sui giovani e sulle donne che non lavorano. Adesso però le dichiarazioni del direttore generale di Federmeccanica: il contratto nazionale può essere superato dal contratto aziendale. Le dichiarazioni che hanno creato un insieme di reazioni. L'ultima delle quali di qualche minuto fa, il numero uno della CGIL, Susanna Camusso, ha detto: se fosse vero quello che ho letto, vuol dire che Federmeccanica sbaglia per la quarta volta. E questa volta anche la CISL dice, lo dice il numero uno Buonanni, nessuno metta il carro davanti ai buoi. Sentiamo Buonanni intanto. Abbiamo un contratto nazionale firmato, deve durare almeno altri 2 anni. Non mi pare che bisogna mettere i carri dai buoi da parte di nessuno. Chiaramente Landini, numero uno della FIOM, inaccettabile la proposta di Federmeccanica, stanno inseguendo la Fiat, si fanno male da soli. Cosa avrà mai detto il direttore generale di Federmeccanica? Beh, lo chiediamo a lui stesso. Direttore Roberto Santarelli, buonasera. Buonasera. In realtà c'è anche chi, il ministro Salconi, ha detto: beh, queste sono cose tipicamente materia delle parti sociali. Invece parla di proposta fatta di buon senso il vicepresidente Confindustria Alberto Bombassei. Al microfono la nostra Alessandra Schepisi, alla delega anche della relazione industriale. Sentiamo Bombassei. Vediamo quali sono le proposte definitive, condivise, e daremo il giudizio. Adesso farlo in anticipo penso che sia fuori luogo. Diciamo. Ci sono esempi buoni dell'uno e buoni esempi o cattivi esempi della, quindi lasciamo che prima definiscono fra di loro. Sicuramente se lo propongono, per definizione sarà una roba di buon senso, perché sono persone di buon senso, non credo che facciano delle proposte, per cui aspettiamo prima che ci sia la proposta e poi daremo il giudizio, quindi non mi sembra prematuro dare. No, lasciamo davvero grande rispetto delle autonomie, quindi lasciamo che Federmeccanica faccia il suo lavoro nella sua autonomia, chiaramente dobbiamo poi condividerla, ma è un qualche cosa che va lasciato veramente all'autonomia delle parti e il rispetto anche dell'autonomia delle parti. Allora, al di là della vicenda Fiat, in cui Marchionne è uscito da Federmeccanica perché voleva farsi il suo contratto e non stare dentro il contratto nazionale, e vicenda Mirafiori, ma non solo, insomma, a gennaio 2009 CISL, UIL e Confindustria, la CGIL non ha firmato, firmano un accordo sui modelli contrattuali che dice in sostanza questo: c'è il contratto nazionale che serve da cornice, però diamo più spazio, più forza al contratto aziendale, al contratto dell'azienda, che abbia maggior peso. Lei, direttore Santarelli, oggi insomma, che cosa ha sostenuto? Perché così capiamo anche come mai si sono irritati così tanto alcuni sindacati. Prego. No, ma innanzitutto non l'ho sostenuto io, ma è una decisione, un'indicazione assunta dal consiglio direttivo di Federmeccanica. Ci mancherebbe, ma che l'ha esplicitata in un suo comunicato. Ma no, la questione è questa: la presidente Marcegaglia ha già annunciato nei giorni passati che Confindustria sta costruendo una proposta che verrà presentata entro la primavera sulle innovazioni da introdurre alle regole contrattuali attuali. Dentro questo, il consiglio, all'interno di questo contenitore, diciamo, il consiglio direttivo dice: prendiamo in considerazione anche l'ipotesi di consentire la possibilità di contratti specifici per determinate situazioni aziendali rispetto al contratto nazionale. Questo è quello che si dice. D'altra parte, tenga conto che come Federmeccanica già abbiamo definito una disciplina abbastanza importante sul sistema di derogabilità dei contratti. Questo ulteriore passo avanti non fa che rendere più chiaro ed esplicito e più trasparente questo regime di flessibilità che noi riteniamo sia urgente. Però mi scusi, lei ha anche aggiunto che delle 12.000 aziende associate il contratto nazionale verrà utilizzato dalla stragrande maggioranza, da 11.500. Chi sono queste altre 500? No, vabbè, adesso questo. No, perché i numeri sono così precisi. È una conversazione informale, no, ma ho capito, è uscita l'agenzia. Non voleva essere un'indicazione quantitativa. Quello che si voleva dire, che voglio dire, è che io sono abbastanza certo che queste innovazioni saranno poi utilizzate da un numero esiguo, credo, di aziende all'interno delle 12.000 nostre associate. No, ma siccome qui stiamo decretando in qualche modo anche la fine del contratto nazionale come unico contratto di riferimento, non la fine del contratto nazionale in sé, esatto. Non è una cosa da poco, perché noi sospetto che Marchionne avesse rotto un paradigma e un modello per tutto il paese, l'abbiamo avuto fin dall'inizio, lei ce lo sta confermando. Vorrei capire le caratteristiche di queste 500, 600, mi interessa poco, aziende che secondo lei non aderiranno al contratto nazionale e useranno il contratto aziendale. Quali sono? Grandi, piccole, medie, non so, multinazionali? Presumo che possano essere delle aziende più strutturate, di maggiori dimensioni, quelle che riescono meglio a gestire anche e a definire sistemi complessi di regolamentazione del lavoro. Questo non esclude che ci possano anche essere aziende di medie o anche di piccole dimensioni che possano fare lo stesso mestiere, diciamo così. Quindi non c'è una discriminazione dimensionale. Sicuramente immagino che saranno le aziende più, ripeto, più strutturate da questo punto di vista, che potranno in qualche modo assumersi l'onere di ridefinire discipline complessive. Ma lei non teme che poi le grandi che hanno stabilimenti all'estero potranno dire vabbè, o facciamo il contratto aziendale come voglio fare io, oppure andiamo a produrre all'estero, mentre le piccole che hanno solo lo stabilimento qua sul territorio saranno obbligate a star dentro al contratto nazionale? Ma no, perché noi pensiamo a un contratto nazionale che è comunque flessibile, pensiamo al fatto che appunto la disponibilità dello strumento è aperta a tutti. Poi sicuramente la nostra esigenza è quella di rendere per le aziende sempre più possibile definire regole su misura delle proprie caratteristiche. Poi ognuno lo farà nei modi e coi tempi che ritiene opportuno, ma io ripeto, ritengo che per la stragrande maggioranza dei casi il contratto nazionale va farà bene fede. Così com'è. Poi, scusi, ho sentito dichiarazioni sì. prima fatte da... Abbiamo 20 secondi. Sì, 20 secondi. Dunque, chi dice mettere il carro davanti ai buoi, io dico il nostro intento è quello che i buoi non si distacchino dal carro, innanzitutto. Sugli errori, sulla dichiarazione della Comune, dice facciamo degli errori, punti di vista. Certo, se fossimo legati alla capacità di innovazione della CGIL saremmo ancora fermi al 93. Va bene, giustamente lei replica la Camusso, anch'io sono d'accordo che sul carro davanti ai buoi basta che i buoi non siano scappati, vorrei anche vedere il carro. Comunque grazie al direttore generale di Federmeccanica Roberto Santarelli, da Sebastiano Barisoni veramente tutto, noi ci risentiamo con Focus Economia domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.